Letture di Radio 24. Chiarezza sulle morti in carcere. La deve chiedere e pretendere l'Italia dalla vicina Francia dopo la morte di Daniele Franceschi e la devono chiedere e pretendere gli italiani su quelle morti nelle patrie galere. Perché, come scrive Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, non è tollerabile che una persona consegnata alle strutture pubbliche entri viva ed esca morta. Che cosa contenevano le pagine strappate dal diario dell'ultimo mese di vita di Daniele Franceschini, il 31enne italiano morto il 25 agosto scorso nel carcere di Nizza dopo 5 mesi di detenzione? Forse niente di rilevante, o forse molto. Forse solo qualche indizio per capire una storia ancora inspiegabile e inspiegata. In ogni caso, è inquietante che quelle pagine siano sparite. E basta il dubbio che siano state sottratte per nascondere qualcosa di indicibile, per chiedere, e bisognerebbe dire pretendere, che la nuova denuncia dei familiari di Franceschini non cada nel nulla. Dopo la sua morte avvenuta per arresto cardiaco, espressione che non spiega nulla, giacché tutti se ne vanno per quel motivo, il cadavere arrivò in Italia svuotato, privo degli organi, spiegò il medico legale. C'era anche in quel caso qualcosa da celare. In una lettera restituita ai familiari insieme al diario strappato, Franceschini avrebbe chiesto aiuto, sostengono i suoi familiari, e sollecitato accertamenti medici. Perché? Quando fu arrestato per uso improprio di carte di credito nel casinò di Cannes, stava bene. Che cosa è successo in prigione? Sono domande a cui non solo i parenti della vittima, ma l'Italia avrebbe diritto a una risposta. Tanto più da un paese amico come la Francia. Il ministro della giustizia Alfano è già stato sollecitato ad acquisire le informazioni necessarie a fare luce. Forse anche il ministro degli esteri potrebbe fare un passo, ma qualunque mossa in questa direzione avrebbe maggior valore se nel frattempo in Italia si riuscisse a ottenere un po' di verità sui detenuti morti nelle patrie galere o nei posti di polizia. Da Stefano Cucchi, per il quale il processo è alle battute iniziali, al caso di Giuseppe Uva, per cui un eventuale giudizio è ancora di là da venire, a tutte le altre persone morte mentre erano custodite nelle strutture dello Stato. Forse colpevoli di qualche reato o forse no, non importa. Quel che non è tollerabile è che una persona consegnata alle strutture pubbliche entri viva ed esca morta. E se ciò si verifica, che l'accaduto rimanga senza spiegazioni e conseguenze, non per smania di giustizialismo, ma per un banale quanto insopprimibile dovere di giustizia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Chiarezza sulla fine di Franceschi e su quelle morti in carcere, dal Corriere della Sera di giovedì 12 maggio, a firma di Giovanni Bianconi. Letture di Radio 24. Se sei donna, sei dilettante. Questa è in sostanza la condizione delle nostre atlete, che pure vincono medaglie e titoli alle Olimpiadi e nelle manifestazioni sportive. La legge 91 del 1981 sancisce infatti le discipline qualificate come professionistiche, ma solo gli uomini rientrano tra i professionisti. Federica Pellegrini? Una dilettante. Nonostante il suo oro olimpico, prima italiana a portarne a casa uno, i podi ai campionati mondiali di nuoto e i record ancora imbattuti in più di una specialità. E così la regina del pattinaggio sul ghiaccio, Carolina Kostner, campionessa italiana, mondiale, olimpica. E ancora la pallavolista Francesca Piccinini, Josefa idem alla sua 8ª Olimpiade nel kayak, la tennista Flavia Pennetta, la calciatrice della nazionale femminile, Patrizia Panico. Se è donna, è dilettante. Tutte atlete che sono un orgoglio nazionale, di cui l'Italia si vanta all'estero, ma con ben pochi diritti sanciti dalla legge. E se loro non hanno la qualifica di professioniste, ma hanno sponsor e redditi all'altezza del talento, c'è un esercito di sportive sconosciute, senza diritti e senza soldi. Una discriminazione non da poco, se si considera che in Italia ci sono 7 milioni di tesserati con le federazioni sportive nazionali e che lo sport è il terzo aggregato industriale di questo paese, costituisce il 3% del PIL. Per questo l'Italia dei Valori vuole proporre un disegno di legge per eliminare le disuguaglianze, spiega Luisa Rizzitelli, responsabile nazionale per lo sport dell'Italia dei Valori, ex pallavolista che si occupa oggi di pari opportunità. Sono solo 6 in Italia le discipline qualificate come professionistiche. Il calcio, serie A, B, C1, C2, la pallacanestro, serie A1 e A2, il ciclismo su strada, il motociclismo, la box e il golf. Con un piccolo particolare, sono professionisti solo gli uomini. Tutte le colleghe, infatti, non hanno nessun diritto. Lo stabilisce la legge 91 del 1981, che delega la regolamentazione delle attività sportive a titolo oneroso e con carattere di continuità, cioè chi è atleta per lavoro, alle federazioni sportive nazionali, le quali non tutelano affatto l'altra metà del cielo, che vive di sola passione ed esigui rimborsi spese, stipendi di fatto, oltre che di scritture private che, per dirne una, prevedono di norma il licenziamento in tronco nel caso l'atleta rimanga incinta. Casi che non si limitano a sportivi alle prime armi. Per esempio, una delle più quotate campionesse di pallacanestro italiane, Adriana Moises Pinto, si è vista risolvere il contratto appena annunciata la maternità. La società pallacanestro Faenza ha persino minacciato di citarla per danni. E se su questo aspetto c'è almeno una proposta di legge presentata alla Camera dalla deputata PDL Emanuela Di Centa, che vorrebbe stanziare 5 milioni di euro all'anno per sostenere le sportive durante la gravidanza, ma solo quelle che giocano in nazionale, ciò che manca è una legge quadro che affronti l'insieme dei problemi. Per avere almeno una tutela base, infatti, molte atlete si arruolano nelle Fiamme Gialle, che insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia e alle Forze Armate possono assumere direttamente sportivi di interesse nazionale. Chi sceglie lo sport come professione non deve rinunciare solo a essere madre. Non avrà diritto a una pensione, niente contratti collettivi, zero TFR, nessuna assistenza sanitaria. Né tantomeno alcuna forma di assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità o il decesso. E per chi volesse accantonare un po' di soldi affidandosi esclusivamente al proprio talento, la fregatura è comunque in agguato. I montepremi per le donne sono sempre inferiori a quelli maschili, qualche volta addirittura la metà. Nonostante lo statuto della federazione atletica vieti i montepremi diversi, nella prassi avviene. Prendiamo la maratona del Piceno. 42 km di gara, stessa quota di iscrizione per uomini e donne, stessa fatica. Però i vincitori maschi vengono premiati fino al 9° classificato, mentre le colleghe solo fino al 4° posto. E soprattutto sono diversi i montepremi. 1.500 euro per il primo classificato, 1.200 per il secondo, 1.000 per il terzo sul podio. Mentre le donne partono dai 1.000 euro per la medaglia d'oro, 700 per l'argento e 500 per il bronzo. E ancora, come ha raccontato la campionessa di ciclismo su pista Vera Carraro, l'oro dei mondiali valeva 20.000 euro contro gli 80.000 della gara maschile, un quarto. Siamo messe peggio di Colf e Badanti, dice Josefa Idem, campionessa di kayak che ha rappresentato per 2 volte la Germania, suo paese natale, alle Olimpiadi e 5 volte l'Italia. Dal 1990 sono italiana a tutti gli effetti e subisco le vostre leggi. Se ottengo il risultato mi pagano, altrimenti nulla. Ho avuto il raffreddore per 2 settimane e basta questo per rallentare i miei allenamenti e mettermi in difficoltà, visto che se mi ammalo non mi tutela nessuno. La giornata di Josefa comincia alle 7 del mattino. Si sveglia e porta i figli a scuola. Si allena fino all'una meno un quarto, poi altre 3 ore il pomeriggio. Mi considero una lavoratrice autonoma, spiega. Ho la mia società e guadagno grazie agli sponsor. Quando guardate le Olimpiadi e tifate per la medaglia d'oro all'Italia, sappiate che, spente le telecamere, torniamo a essere precarie a cui vengono stracciati i contratti se rimaniamo incinte. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'atleta? Se è donna è dilettante, da Il Fatto Quotidiano di venerdì 13 maggio, a firma di Beatrice Borromeo.